e motori con Massimo Di Scienza. 16:33 minuti 15 secondi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti amici di Radio 24, ben trovati a un nuovo appuntamento con Sport e Motori. Saremo insieme fino alle 17 per parlare, come ogni domenica a quest'ora, di Motomondiale, soprattutto MotoGP, ma anche Moto2 oggi, perché sono arrivate buone notizie in questa classe dal Gran Premio di Aragon. Poi parleremo nella seconda parte del Mondiale di Formula 1 lanciato verso la volata finale. Subito il risultato per chi non avesse avuto modo di seguire in diretta del Gran Premio di Aragon, l'esordio peraltro di questo bellissimo circuito a mio avviso nel mondiale, il terzo dei quattro circuiti spagnoli che ospitano una gara del mondiale 2010. Ebbene, in MotoGP la vittoria è andata a Casey Stoner, l'australiano della Ducati. Pensate, non vinceva da più di un anno, dal Gran Premio di Malesia del 2009. Stoner ha avuto la meglio su Dani Pedrosa, che dunque ha recuperato 6 punti a Lorenzo, fuori dal podio, e questo è una vera rarità quest'anno. Quarto Lorenzo, dietro anche a Nicky Hayden, che lo ha bruciato a qualche centinaia di metri dal traguardo e gli ha, tra virgolette, rubato il posto sul podio. Quinto Spies e soltanto sesto Valentino Rossi, una prestazione assolutamente in linea con quelle che sono state le qualifiche. Ricorderete, settimo sulla griglia di partenza, addirittura terza fila per Valentino Rossi. Una gara anonima, deludente, quella di Valentino, che ha avuto perfino, come dire, il disonore, tra virgolette, se si può chiamare così, di essere bruciato in partenza da Dovizioso. Quindi una gara in salita complicata di Valentino Rossi. Ovviamente parleremo e tanto questo pomeriggio, perché la puntata di oggi l'abbiamo voluta in qualche modo intitolare "È crisi per Valentino Rossi e come ne uscirà il pilota italiano della Yamaha, almeno per adesso, e della Ducati prossima stagione. È soltanto un problema fisico, è stato un errore rientrare così presto". Vogliamo sapere la vostra opinione di SMS al 349-238-6666 oppure al numero verde 800-24-0024. Insomma, scatenatevi su Valentino Rossi, oggi soltanto sesto, ieri settimo in prova Valentino Rossi. Poi leggeremo alcune dichiarazioni davvero, come dire, sportivamente desolanti e desolate, le parole di Valentino dopo il traguardo. Buon pomeriggio a Carlo Vanzini, prima firma dei motori di Sky Sport. Ciao Carlo, buona domenica. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, con te Carlo partiamo con l'analisi del Gran Premio. Non è stato molto divertente, al di là del così risultato poco positivo per i colori italiani per quanto riguarda i piloti, molto positivo invece per quanto riguarda la moto Ducati. Che cosa ha detto questo Gran Premio di Aragon, Carlo? Ma intanto la prima cosa che vorrei dire è che la pista è bella, mi piace, e piace anche ai piloti, e quindi il fatto che non si sia corso in Ungheria con questo Gran Premio sul lago Balaton, che si deve disputare da 2 anni e ancora non si è disputato, ci ha portato a scoprire un nuovo circuito che mi sembra bello per i piloti, e loro credo si siano divertiti, anche Hayden con il sorpasso strepitoso, oserei dire, su Lorenzo, anche se Lorenzo credo in quel momento, nel momento in cui ha visto quel rosso di colpo che gli si è infilato, ha pensato sicuramente al mondiale. Davanti si è risolta la questione quasi subito, Lorenzo ci ha provato all'inizio, poi ha capito, insomma, che non ce n'era. Stavo guardando anche le velocità di questo Gran Premio, mi stupisce molto soprattutto Lorenzo, perché ha una media delle sue 5 velocità più alte di 319 km orari, contro un Pedrosa che andava 6 km orari più veloce in media, quindi vuol dire una Yamaha che su questo circuito ha sofferto la potenza del motore Ducati e ha sofferto anche la forza della Honda, che aveva una media di 325 km orari. Quindi tutto sommato, diciamo, ha giocato in difesa la Yamaha con Lorenzo, che ha un vantaggio ancora abissale, perché 56 punti, lo ricordiamo, sono più di 2 vittorie. Però 5 gare alla fine, insomma, bisogna stare attenti. Adesso Lorenzo deve iniziare a tornare a macinare gli avversari, come ha fatto fino a poco tempo fa. Credo poi analizzeremo la corsa di Valentino, un capitolo a parte, certo. Perché è stato lì dietro, però sai, in settimana con Sky abbiamo trovato questo fuori onda al Mugello, dove lui, parlando con Agostini, diceva: a fine stagione mi devo operare la spalla, fa troppo male. Credo senza scuse per Valentino Rossi di questo periodo non brillantissimo, oltre a una moto non credo all'altezza della situazione in questa fase, dovrà fare su un circuito così guidato, credo sia molto difficile. Nota positiva per Valentino Rossi, la prestazione della Duca. Ci arriviamo, Carlo, ci arriviamo. Nel frattempo speriamo di migliorare la qualità dell'audio con Carlo Vanzini. Magari chiedo a Paolo Corleone in regia la sua collaborazione, lo richiamiamo. Nel frattempo facciamo una piccolissima variazione sul tema, perché ci occupiamo, non lo facciamo spesso, ahimè, forse a volte mancando anche, come dire, di attenzione nei confronti dei piloti di questa categoria, ci occupiamo di Moto2, perché oggi c'è stata una splendida vittoria per il nostro Iannone, pilota giovanissimo abruzzese, a mio parere molto bravo, che si è imposto davanti a Simone Talmaxi, quarto Elias. Iannone peraltro che nel finale è stato protagonista subito dopo aver tagliato il traguardo di un bel tributo a Shoya Tomizawa, ha effettuato un giro con una bandiera con il numero 48, il numero proprio dello sfortunato pilota scomparso due settimane fa a Misano, a cui era dedicato di fatto tutto il fine settimana di Aragon. Lo ascoltiamo Iannone in conferenza stampa subito dopo il trionfo di Aragon, per lui una bella soddisfazione. È stato un periodo difficile fino a Misano, abbiamo passato due gare diciamo terribili, Indianapolis e Misano, e siamo arrivati qui dove il weekend è stato positivissimo, siamo andati molto forte dall'inizio, tutti i turni di prove siamo stati in testa e quindi questo è stato molto importante per noi per capire, ecco, che comunque i problemi che ci sono stati siamo riusciti in parte a risolverli. E quindi questo mi rende felice, ecco, essere tornato a vincere e comunque recuperare qualche punto in classifica. Devo ringraziare la mia squadra perché fa sempre un lavoro ottimo, o meglio ci prova sempre, e nulla. Mi dispiace che non c'è il mio meccanico, lo saluto a casa, torna presto, ti aspetto e speriamo di continuare le altre tre gare che restano così come stiamo andando adesso, molto forti. Questa è dunque una delle dediche di Andrea Iannone dopo la vittoria in Moto2. Iannone che ha 80 punti da recuperare a Tony Elias, 224 contro 144, in mezzo c'è anche Simon, però chissà che magari facendo una bella filotto di vittorie Iannone non possa tornare in corsa per il titolo. Complicato, ma nel moto mondiale mai dire mai. Dichiarazioni di Valentino Rossi, ve le avevamo promesse subito dopo l'arrivo ad Aragon. Il sesto posto è andata anche peggio delle prove. Valentino Rossi davvero amareggiato, in partenza ho perso tempo, dice, ha fatto anche un errore nel tentativo di superare Dovizioso, ma a prescindere da questo non avevo il passo, ero molto lento in questa pista, la M1 un po' in difficoltà, anche Lorenzo ha fatto fatica, per cercare di avere una moto più facile da guidare ci ho rimesso con le gomme perché non ho avuto grip. Il livello degli altri è altissimo, Ducati e Honda hanno risolto i problemi di inizio anno e io da quando ho avuto i fastidi alla spalla ho avuto tanti problemi nella messa a punto. Prima dell'infortunio ero molto preciso nel dare delle indicazioni, riuscivamo ad arrivare in gara competitivi, ma qui no. Se non l'avessimo sentita, caro Carlo Vanzini, che nel frattempo abbiamo recuperato al telefono, dicevo Carlo, se non l'avessimo sentita con le nostre orecchie queste parole non potremmo mai credere che sono state pronunciate da un Valentino Rossi, davvero, come si vuol dire, con le orecchie giù da cagnolino bastonato, è vero, quell'impressione lì è dato. Sì, Valentino Rossi così, in effetti, come hai detto tu, bastonato, cagnolino bastonato, credo da un po' non si vedesse, credo dalla caduta che gli è costata il titolo mondiale dopo la grande rimonta su Aiden. Un Valentino Rossi che mi sembra gettare la spugna, mancano ancora tante gare da qui alla fine della stagione, ancora 5 Gran Premi, quindi insomma qualche soddisfazione potrebbe anche togliersela. Evidentemente è consapevole che in questo momento Yamaha non gli darà una grande mano e lavorerà prevalentemente per Lorenzo. È consapevole di ormai essere un separato in casa, è consapevole di questo problema alla spalla che è diventato ormai di dominio pubblico. Probabilmente avrebbe preferito non aver pubblicità su questo fatto dell'operazione che arriverà a fine stagione. Quindi è un momento molto delicato per Valentino Rossi. Ne avevamo parlato a lungo quando c'è stato l'annuncio del suo passaggio in Ducati. Non dimentichiamo, Valentino non è più un ragazzino, sta lottando con piloti più giovani di lui di 5, 6, 7 anni. E quando succede un qualcosa, quando c'è un infortunio, quando c'è qualcosa che non va, i tempi di recupero andando in là con gli anni, ovviamente è giovanissimo ancora Valentino, però si allargano, aumentano. Quindi Valentino sta un po', secondo me, messo tutto insieme, quello che abbiamo detto, soffrendo, e forse è uno dei periodi un più difficili più della bui, sua carriera in MotoGP. Sergio da Bologna al 349-238-6666 ci scrive: all'inizio della prossima stagione Valentino si sfogherà del mancato sviluppo di Yamaha dopo la dichiarazione del suo passaggio in Ducati. Immaginiamo Sergio tendesse, pagherà in qualche modo questa situazione. Ha fatto troppo presto, secondo te, Carlo, ad annunciare l'addio alla Yamaha, come sottolinea anche il nostro ascoltatore, oppure aveva azzeccato il timing, però forse non aveva previsto le conseguenze, Valentino? Ma quando c'è stato l'annuncio di Casey Stoner, il passaggio all'Honda, ovviamente è diventato abbastanza automatico il passaggio di Valentino Rossi alla Ducati. Il tantan mediatico è diventato insostenibile per tutte le parti, ormai si era scoperto l'accordo tra Valentino Rossi e la Ducati. Quindi c'è stato anche un accordo a sua volta con la Yamaha di ritardare l'annuncio di Valentino in Ducati per poter provare subito la Ducati. Adesso aspettiamo ovviamente ufficialmente l'ok da parte della Yamaha a Valentino per fare subito i primi test in Ducati, poi operarsi e poi tornare nell'inverno del 2011 a provare effettivamente la Ducati. No, secondo me i tempi sono stati giusti. Va detto il rovescio della medaglia, se vogliamo, anche Stoner ha annunciato di andare via dalla Ducati. È vero, la Ducati non ha l'altro pilota in testa al mondiale che sta vincendo il mondiale, però Casey Stoner oggi ha vinto, non è stato tra virgolette danneggiato nello sviluppo, anzi forse sta già lavorando per Lorenzo. Quindi credo che sia un po' l'insieme delle cose, magari una Yamaha che ha rallentato anche lo sviluppo, ma non solo per Valentino, anche per Lorenzo stesso, con un mondiale che sembra, a mio dire, l'abbiamo detto tante volte, ormai già assegnato a Lorenzo, anche se a questo punto 5 gare alla fine, insomma, tanti sono i punti, tutto. Ma non possiamo mettere la parola fine ovviamente al mondiale. Forse anche la Yamaha ha rallentato nello sviluppo. Però questa era una pista nuova per tutti, ci sta a non avere una grande giornata per un team che sta lontano per il mondiale, quindi io aspetterei dei circuiti tra virgolette storici per i piloti della MotoGP per valutare questa fine carriera di Rossi in Yamaha e per la lotta mondiale tra Lorenzo e Pedrosa. Carlo Vanzini, adesso c'è il traffico, ripartiamo anche in attesa dei nostri ascoltatori al 349-238-6666 con una tua valutazione su, insomma, come dire, la domanda che si fanno un po' tutti noi tifosi di Valentino: se tornerà quello di una volta. Sport e motori. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Continuiamo a parlare del presente e del futuro di Valentino Rossi. Tra poco la Formula 1, non ci siamo dimenticati assolutamente di aprire questa pagina, però insomma ci sembra, e siamo ancora con Carlo Manzini, inviato di Sky Sport, che poi la domanda che ci facciamo tutti in questo momento è: ma può un Valentino Rossi in queste condizioni, anche psicologiche, come l'abbiamo visto in pista oggi pomeriggio, come l'abbiamo sentito nelle dichiarazioni post gara, con la prospettiva di non poter provare a lungo la nuova Ducati, quindi ambientamento in un ambiente, scusate il gioco di parole, totalmente nuovo, l'operazione che probabilmente sarà costretto a subire subito dopo la fine del mondiale, ma riuscirà questo Valentino Rossi a tornare quello di una volta, quello che faceva paura al mondo? Carlo, che ne pensi? Io credo di sì, perché Valentino Rossi è Valentino Rossi, è un super campione, è il dottore, poi lo sai, di partenza non sono quello che quando vince dico è un eroe e appena non vanno bene le cose lo getto nella polvere, quindi voglio aspettare prima di pronunciarmi. Il passato conta e molto. Ecco. Certo, dicevo prima, è sicuramente uno dei momenti più difficili della sua carriera. Io credo anche da un punto di vista di motivazioni, perché si rende conto di non avere a disposizione un gran mezzo in questo momento, e in questo momento neanche Lorenzo ha una grande moto. Quindi sono cresciute tantissimo le Honda e le Ducati, e la Yamaha è rimasta un attimo ferma, oppure hanno fatto uno sviluppo migliore gli altri, sta di fatto che stanno pagando sulla prestazione. Per Valentino Rossi non è facile, perché da un punto di vista mentale pensare che sta per disputare le ultime gare con una moto non così competitiva, non dimentichiamo che ha avuto non tanto tempo fa, il peggiore infortunio della sua carriera, e non dimentichiamo che un umano sarebbe ancora a letto con l'infortunio, certo, che ha avuto Valentino Rossi. Quindi, messo tutto questo insieme, la spalla che deve essere operata, insomma, allora la prestazione di Valentino Rossi poi si può anche giustificare così. E tutto questo incide ovviamente sul suo morale, e così spieghiamo anche le sue dichiarazioni, che sono di uno che ha il morale veramente sotto i piedi. Poi per il futuro dipende molto dalla Ducati, anche come seguirà il dottore. La Ducati vista oggi è sicuramente una moto che Valentino può guidare alla grande e portare al successo, anche perché se Aiden arriva terzo, io credo che Valentino non abbia problemi a tenersi dietro Aiden. Quindi per il futuro, per dare dei giudizi sul futuro, aspetterei. Sicuramente questo è il momento più difficile, credo uno dei momenti più difficili della vita sportiva di Valentino Rossi. Io ascolterei anche il parere di Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, che ci ha ascoltato degli ultimi minuti. Carlo, direttore, buon pomeriggio, buona domenica, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, non è proprio il tuo, come dire, campo di esercizio abituale, almeno per quanto riguarda questa trasmissione, però insomma, una tua opinione su questo Valentino Rossi un po' in crisi la volevo sentire. Cosa ne pensi? Scusate, ha pareggiato il Bologna. Chiedo scusa, ma è un momento topico. La doppietta di Divaio in questo momento mi ha fatto perdere. Chiedo scusa a tutti. Non c'è problema. Non c'è problema. E confermo il 2-2. Confermo il 2-2. Ho ascoltato quello che ha detto, sì, Vanzini. E sono... Sì, con un occhio all'Olimpico, però, direttore. Anzi, tutti e due. No, sono molto, molto d'accordo con quello che ha detto Vanzini. Io credo che uno come Valentino non si possa. Comunque ha il diritto di far sempre credere che possa fare qualsiasi cosa, visto che le ha fatte. Poi certo l'incidente l'ha avuto, l'età non gioca mai a suo favore, questo è inevitabile, però insomma, se non diamo credito a uno come lui, non ha proprio senso parlare di moto, ecco. E diamo credito a Fernando Alonso per questi ultimi 5 Gran Premi che mancano alla fine del Mondiale di Formula 1. Ricordiamo, per chi magari nel corso dell'ultima settimana ha pensato ad altro, ad esempio al Bologna o alla Roma in questo caso, che Alonso è terzo nella classifica del Mondiale dietro Webber, dietro Hamilton, ha 21 punti da recuperare rispetto a Webber. Poi ci sono anche Button e Vettel in corsa per il Mondiale di Formula 1. Insomma, direttore, ha una settimana da Monza. Come la vedi, insomma, il presente e il futuro della corsa al titolo? L'altra domenica un commento di Carlo Vanzini mi ha molto colpito, una cosa verissima: ha detto questa è la prima vera vittoria di Alonso con la Ferrari, e questo fatto è molto importante, perché un Alonso così dà molta fiducia. Prima ha fatto diversi errori, queste cose. Domenica è stato talmente tenace, e io credo che domenica solo Alonso poteva battere Button, perché altrimenti quello avrebbe vinto, e Alonso invece non gli ha concesso niente, gli è stato addosso, ha guidato perfetto, non ha consumato le gomme, e è stato perfetto in tutti i momenti e ha vinto. Allora, con questo Alonso qui, quella Ferrari che abbiamo visto domenica è una macchina che può ancora dare speranze. Io sono sempre dell'idea che i due davanti, però, se non fanno errori, sono molto difficili da prendere. Io parlo di Webber e di Hamilton, perché domenica l'erroraccio di Hamilton potrebbe non ripetersi più, e quindi Hamilton è un osso duro che se non vince può stare di vicino, e quindi per Alonso non sarà niente facile, però è certo che è meglio avere un Alonso così che non averlo, ecco. Allora, lasciamo il direttore Cavicchi proprio gli ultimi 60 secondi collegato con l'Olimpico di Roma a soffrire per il suo Bologna. Invece con Carlo Vanzini volevo fare un piccolo gioco. Carlo, 5 Gran Premi alla conclusione, no? Si dice sempre c'è la scuderia favorita su un circuito, la scuderia favorita su un altro. A Monza le Red Bull dovevano pagare un po' pegno alla Ferrari, e così è stato. Insomma, a 5 Gran Premi dalla fine, io ti dico i nomi dei circuiti, tu più o meno cerca di farci capire chi può essere considerato, secondo delle caratteristiche della gara, il team o il pilota, insomma, che può andare meglio. Ad esempio a Singapore si dice che le Red Bull abbiano un qualcosa in più rispetto alle altre. Allora, mi stai facendo fare un gioco un po' difficile. Lo so, però se non eri bravo non eri qui a farci compagnia. No. Assolutamente credo Red Bull, stando all'ultima gara di Budapest, gara da carico. Però la Ferrari è andata benino a Budapest, andava bene a Valencia e stava andando molto forte a Monte Carlo, prima che Fernando Alonso facesse errore nelle prove libere, poi ha fatto un garone rimontando da ultimo alla sesta posizione, quindi io non darei per scontato il successo Red Bull, ma credo che lì la Red Bull abbia di partenza un vantaggio, però puntini puntini. Senti, per completare il trittico invece asiatico, Suzuka, Giappone e poi la Corea, chi vedi meglio? Suzuka, secondo me, vedo bene lì la McLaren, però anche lì Red Bull e Ferrari con sempre un'incognita. Diciamo che nelle ultime gare Ferrari può essere un'incognita, perché andiamo su piste totalmente diverse da dove ha trionfato con Fernando Alonso a Monza. Quindi per me la Ferrari è un'incognita, ma ovviamente un'incognita a ridosso di Red Bull e McLaren. E poi si chiude con Brasile e Abu Dhabi. Brasile storicamente, per quello che si è visto negli ultimi anni, fatta eccezione ovviamente dell'ultima stagione, è un gran premio Ferrari, quindi metterei la Ferrari per i risultati ottenuti negli ultimi anni, 2009 a parte. E per concludere Abu Dhabi, Carlo, per questo gioco perverso cui ti ho costretto? Abu Dhabi è secondo me una pista molto Red Bull, però... Va bene, anche qui puntini. Va bene, va bene. Carlo, senti, prima di tornare al direttore ancora sulla Ferrari, volevo chiederti invece qualcosa sul futuro di Michael Schumacher, perché se ne è parlato tanto in settimana, no? C'erano state queste voci, queste indiscrezioni sul possibile addio di Brown dalla Mercedes, e quindi anche in qualche modo di una nuova chiusura della carriera di Schumacher. Tu cosa ci puoi dire? Ci puoi confermare questa indiscrezione, oppure la prendi anche tu con le pinze, come si dice? Guarda, io cerco sempre di andare poi quando vedo una notizia di cercarla, verificarla, di vedere se è fondato o no, guardando su alcuni siti che so essere molto vicini alle fonti. E quello che ha detto Jordan, soprattutto Eddie Jordan, mi ha colpito, perché Eddie Jordan ha detto: ho parlato con Schumacher e credo che questa sia veramente la sua ultima stagione in Formula 1. Non dimentichiamo che Eddie Jordan è quello che ha annunciato al mondo, e tutti gli davano del pazzo, anche perché poi Eddie Jordan è un personaggio molto particolare, ha annunciato al mondo, guardate che Schumacher l'anno prossimo correrà con la Mercedes, con Ross Brawn, e tutti a dirgli: no, guarda che non ci siamo proprio. Quindi io do credito a Eddie Jordan. Chiaramente Schumacher ha un bivio, è al bivio del continuare rischiando di andare avanti così, perché lasciamo stare le prestazioni della macchina, ma rispetto al compagno di squadra diciamo non ci siamo proprio, oppure fermarsi, ammettere di aver provato un qualcosa di impossibile, un po' come ha fatto Armstrong alla fine di questo ultimo Tour de France, aver tentato un'impresa che non può essere portata a termine. Io non sono nella testa di Schumacher, è una scelta assolutamente difficile. Per quello che lo conosco io, non molla, vuole dimostrare di poter vincere, di poter confermare quello che lui ha detto: io torno per vincere il mondiale. Quindi ce lo troveremo. Però è difficile. Al via anche alla prossima stagione. Grazie a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. A domenica, Carlo. Ciao. Ciao, grazie a tutti. 2-2 tra Roma e Bologna, e quindi sospiro di sollievo, grande soddisfazione per Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Direttore, abbiamo rovinato il finale della partita. Soltanto, guarda, in 5 secondi proprio un telegramma. Domenica a Singapore. Come lo vedi, Alonso? Io lo vedo bene. Beh, anche perché lui ha avuto anche un passo in passato con la Renault, un bel ricordo a Singapore, no? Quindi era una gara impossibile. Lo vedo bene. Io devo dire che secondo me le gare della McLaren saranno sicuramente per Hamilton tutte, perché Hamilton è un pilota come Alonso che le può fare tutte. Dove la McLaren ha in appoggio ad Hamilton un pilota buono è Button in Brasile, in Suzuka sicuro. E poi dipenderà molto dal tempo andando a fine stagione. Ah, beh, noi certo, sappiamo che a Suzuka spesso piove, quindi certo, c'è questa variabile da sottolineare. Grazie a Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. A domenica, direttore. Grazie a Paolo Corleone in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Noi ci troviamo tra 7 giorni per un nuovo appuntamento con Sport e Motori. Ciao. Sport e Motori.